Volevamo raccontare che la crisi climatica non riguarda solo il polo nord che si fonde e mette a rischio la vita dell'orso bianco. Volevamo raccontare di quello che sta succedendo sul territorio nazionale, tra ondate di calore, alluvioni, eventi in generale climatici estremi. Stiamo facendo la conta, siamo arrivati ormai a quasi oltre 1500 eventi estremi dal 2010 ad oggi, ma quello che è molto preoccupante è vedere l'accelerazione degli ultimi mesi, perché nei primi 10 mesi del 2022 abbiamo avuto un numero di eventi estremi che è superiore del 27% agli eventi estremi di tutti l'anno 2021. Questo è un dato ovviamente parziale ma significativo, perché rappresenta quell'accelerazione che gli scienziati dell'IPCC che supportano le politiche dell'ONU raccontano spesso e che purtroppo stiamo vedendo anche sul territorio italiano. A proposito di Ischia, in questi giorni si punta molto il dito sui condoni edilizi, ma in più in generale il consumo di suolo favorisce poi il verificarsi di queste tragedie. Beh, la tragedia di Ischia purtroppo è un mix tra un evento climatico estremo, una fortissima pioggia in poche ore, e dall'altra parte un territorio martoriato dalla cementificazione legale ma soprattutto illegale. L'isola di Ischia da sempre la denunciamo come l'isola dell'abusivismo edilizio. Tra l'altro è stato oggetto anche di un nuovo condono, quello del 2018, perché insomma in seguito all'evento sismico del 2017, per facilitare la ricostruzione sull'isola, il governo Conte 1 e la loro maggioranza, Movimento 5 Stelle e Lega, decisero di varare una norma per accelerare la valutazione delle istanze di condono sull'isola, utilizzando i criteri più permissivi del condono di Craxi del 1985, che garantiva la possibilità di sanare case realizzate anche in area a rischio idrogeologico o sismico. Grazie al condono varato su Ischia dal governo Conte 1 si stanno ricostruendo case con i soldi pubblici in area a rischio, e questo è doppiamente imperdonabile. Una norma che fu votata dal Movimento 5 Stelle e della Lega e che fu anche votata favorevolmente da Fratelli d'Italia. Ci fu l'astensione di Forza Italia. Credo che sia giusto ricordarlo, perché le dichiarazioni dell'ex presidente Conte ieri alla trasmissione di Lucia Annunziata sulla RAI sono state veramente irritanti, e noi non possiamo tacere, visto che allora facemmo questa battaglia per chiedere l'abrogazione di quella norma insieme all'ANCE, l'Associazione dei Costruttori, insieme ai sindacati, tutti e tre i sindacati, i confederali e quelli di categoria, insieme anche ad altre associazioni come Libera. Non ci ascoltarono, e questo purtroppo, come dicemmo allora, rischia di mettere a repentaglio la vita delle persone che continueranno a vivere in aree ricostruite con i soldi pubblici oggetto di rischio idrogeologico e rischio sismico, e questo per noi è davvero davvero inaccettabile. Nello specifico voi avete fatto 3 richieste urgenti dopo questa ennesima tragedia al governo, che sottolineano anche un po' quello che non è stato fatto fino a questo momento. Sì, al governo Meloni abbiamo chiesto 3 cose. La prima è di varare questo benedetto piano nazionale di adattamento climatico, un piano che fu scritto in bozza dal governo Gentiloni nel 2018, era ministro dell'ambiente Gianluca Galletti. È passata un'intera legislatura, 3 governi, Conte 1, Conte 2 e Draghi, 2 ministri dell'ambiente e della transizione ecologica, Sergio Costa e Roberto Cingolani, e il piano è ancora in bozza. Il Consiglio dei Ministri di ieri ha sancito che entro la fine di dicembre questo piano nazionale di adattamento climatico verrà approvato, speriamo. È un piano importante per capire come convivere con l'emergenza climatica e cosa devono fare lo Stato, le regioni, i comuni, le autorità di bacino, il mondo agricolo, il mondo produttivo. È un piano importante per capire appunto come nei prossimi 10, 20, 30 anni noi conviviamo con questa emergenza climatica, sperando che nel frattempo abbiamo ridotto in tutto il mondo le emissioni di gas serra. La seconda cosa che abbiamo chiesto è una legge contro il consumo di suolo. 10 anni fa fu approvata in Consiglio dei Ministri una norma che poi non è stata mai approvata in Parlamento. La stessa cosa è avvenuta nella scorsa legislatura. Il Parlamento ha discusso la legge contro il consumo di suolo, ma non è mai arrivata all'approvazione. Chiediamo di fronteggiare il problema della cementificazione del territorio, garantendo all'edilizia ovviamente tutto il lavoro per la rigenerazione urbana, anche attraverso la rimodulazione dei bonus edilizi, che è fondamentale per rendere più semplice l'uso di questi strumenti importanti, anche per l'efficientamento energetico e la messa in sicurezza della normativa antisismica degli edifici. L'ultima cosa che abbiamo chiesto è di restituire la cabina di regia presso il Consiglio dei Ministri, la cabina di regia Italia Sicura, che fu varata dal governo Renzi, una delle poche cose fatte nel verso giusto sui temi ambientali dal governo Renzi. Quella cosa era una cosa molto importante, perché questa struttura di missione presso Palazzo Chigi metteva insieme, integrava e faceva di parlare i vari enti istituzionali tra comuni, regioni, autorità di bacino, ministeri a vario titolo coinvolti nella prevenzione del rischio idrogeologico. Quando arrivò il Conte 1 si decise di smontare quella struttura di missione, che stava dando i suoi risultati importanti, e si è tornata allo spezzettamento delle competenze. Serve ripristinare questa struttura di missione per permettere la velocizzazione degli interventi per mitigare il rischio idrogeologico in tutta Italia, anche alla luce dell'accelerazione della crisi climatica.